Irene, questa sera la faccia te la strapperei via, così faresti paura al mondo ma resteresti sempre mia. In questa notte di buio pesto, che forse era buio pomodoro, le mie mani brigate rosse accarezzano te che sei Aldo Moro. E l'hai letto nelle stelle che la musica ci darà il pane, il realismo l'avrai lasciato a qualche mercatino equo solidale. Irene non ci crede poi tanto allo zodiaco, che la musica al pane quotidiano lo dà solo a chi è celiaco. Il futuro che ti potevo dare l'ho barattato per i vinili che ho in soffitta, te li recalerò quando avrai perso le speranze e ti sentirai sconfitta. Il futuro che ti potevo dare alla fine è una fregatura, meglio che ti sposi un ingegnere, un notaio, un dentista oppure il tuo analista. Una luce indagatrice, color della cedrata, brucia forte in questa stanza, incenerisce la serata. E mentre dormi un rivolo di saliva ti scocca dalla bocca, preciso come un bacio mai dato, un orologio che rintocca. Yeah, yeah. Irene, i cantautori dicono che l'importante non è quante volte cadi, ma sai il coraggio di rialzarti. Ma dopo mille cadute roventi non ci resta che imparare a vivere come i serpenti. E il futuro che ti potevo dare l'ho barattato per i vinili che ho in soffitta, te li regalerò quando avrai perso le speranze, vorrai star solo zitta. Il futuro che ti potevo dare alla fine è una fregatura, senti, corri via da tutto questo, scappa forte finché puoi, ricordami come Neville Patchouk in un mondo di Dracoma poi. Darti mai dei testi delle mie canzoni, soprattutto di quelle da parafrasare, che sono le peggiori. E fidati del pane fresco nelle mattine d'inverno e del paradiso solo se visto dall'inferno. Potevo dare l'ho barattato per i vinili che ho in soffitta, te li regalerò quando avrai perso le speranze, ti sentirai sconfitta.